Friuli nel mondo, 191esima trasmissione dedicata agli emigrati. Con l'orchestra diretta da Virginio Feruglio vi trasmettiamo, cari fratelli emigrati, un secondo gruppo di canzoni friulane che hanno avuto il battesimo del successo durante il 10° Festival di Pradamano. Ci auguriamo che questi componimenti, nell'interpretazione di giovani cantanti dilettanti su testi musicali e poetici di autori nostrani, possano per un po' riportarvi col cuore e col pensiero al vostro caro Friuli lontano. Ascoltate per prima Un re con te di Lelo Cantoni, Giuseppe Lentini e Nino Pascutti. Canta Gianfranco Fedel. Amor. Ed ora, con la voce di Ilva Valusso, potrete ascoltare Un jazz sui cops di Guido Michelutti e Claudio Noliani. Tutte innamorate hanno mur di crepe cur, le suris che passe via io domani la farai pur. Gnau, gnau, gnau, oce gians, oce sudadis, oce gnotti. Già tutte innamorate hanno mur di crepe cur, e le suris che passe via io domani la farai pur. Gnau, gnau, gnau, oce gians, oce sunadis, oce gnotti. Galdino Turco canta ora Gran Seren di Pietro Someda De Marco e Ottavio Paroni. In tal fres che ste mattine una lettere quai ti appade riduzzare la questine e nulive tanti bondi bon e pluvive lo vive, un elus dicil sere. E lo vive, lo vive, e lo vive tale mio cuor. E lo vive tale mio cuor, un elus dicil sere. Oli ai viari tendu trimar, mi manchiave si anche il flar, ad aviari tere la strade, che io bevi tan bramat, bramat. E pluvive, pluvive, pluvive, e più vive tale mio cuore, e più vive, più vive, più vive, un elus dicil sere. E più vive, più vive, più vive, e più vive tale mio cuore, inondat l'ere tale splendore di un cielo sereno. E più vive tal mio cuore, inondat l'ere il mio cuore, tal splendore di un ciel sereno, tal splendore di un ciel sereno. I Sions di Soventut di Guido Michelutti e Luciano Gabrici vi viene cantato da Rosanna Rupil. Benedes, fran, ai si uns de vite, sei si crot, ai si uns di amor, ogni frute ei è felice, e ogni dum si sint un sio. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.